Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, affrontiamo questa sera un tema molto dibattuto, immagino anche in molte famiglie, che ha a che fare con la scienza e con la salute, ma nel quale spesso ci si rifiuta proprio di dare retta agli scienziati. È un esempio questa polemica anche del ruolo nefasto che la rete internet può svolgere, assieme ai tanti meriti che ovviamente le riconosciamo, nel contribuire a diffondere delle notizie, delle tesi che sono spesso del tutto infondate. È il caso dei vaccini, il tema che vi propongo questa sera. Vaccini che sembrano appunto l'ultima frontiera di molte persone che per recuperare un rapporto diverso con la natura si rifiutano con sempre maggiore frequenza di ricorrere a questo strumento. Queste persone lo fanno spesso senza sapere di che cosa parlano e quindi raccomando a tutti la lettura di un libro di un grande scienziato italiano che è famoso in tutto il mondo, anzi pare che sia lo scienziato italiano con il maggior numero di citazioni nella letteratura scientifica internazionale. È docente di patologia generale alla Humanitas University di Milano e si chiama Alberto Mantovani, che con Monica Floraniello ha scritto Immunità e vaccini, perché è giusto proteggere la nostra salute e quella dei nostri figli. È pubblicato da Mondadori, 144 pagine, 18 euro. È un libro chiaro e sintetico che spiega da un punto di vista scientifico il ruolo fondamentale che i vaccini svolgono e sempre più assumeranno per la difesa della salute, tanto della salute individuale quanto della salute collettiva. La diffusione dei vaccini ha portato all'estinzione, o come si dice in termine tecnico, all'eradicamento di malattie come il vaiolo. Lo stesso obiettivo sarebbe a portata di mano se i vaccini fossero maggiormente utilizzati in molte aree del pianeta che sono tuttora flagellate, per esempio, dalla poliomielite, che anch'essa è estinta in Europa, ma è pericolosamente vicina a noi in zone dalle quali potrebbe facilmente tornare a colpirci, per esempio, la Siria. Spiega Mantovani che ogni anno nel mondo sono tra i 2 e i 3 milioni i bambini salvati da morte certa dai vaccini. Tuttavia, ancora più di 21 milioni, cioè un bambino su 5, non ricevono le vaccinazioni principali. Infatti, aggiunge, ogni anno in tutto il mondo muoiono circa 10 milioni di bambini al di sotto dei 3 anni, una vera ecatomba ancora più tragica se consideriamo che se ne potrebbero salvare almeno 2 milioni e mezzo, 3 milioni, semplicemente permettendo loro di avere a disposizione e utilizzare i vaccini più elementari. E proprio per questa ragione negli Stati Uniti si sta ritornando all'obbligo di vaccinare i ragazzi che, come per esempio avviene già in California, non possono essere iscritti nelle scuole se appunto non sono stati sottoposti ai vaccini. Questi dati non smuovono gli scettici, che sono in aumento soprattutto in Italia. Il nostro paese, fra l'altro, è stato rimproverato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità proprio perché è in calo la vaccinazione. E infatti, scrive Mantovani, che la copertura vaccinale negli ultimi anni è sensibilmente peggiorata. Addirittura siamo precipitati sotto la soglia di sicurezza. Nel 2014, scrive, il tasso di copertura è sceso al di sotto del 95%. Per malattie come la poliomielite, la difterite, la pertosse, il tetano e l'epatite B, ancora più basso, 86,6%, il livello per morbillo, rosolia e parotite. E allora sentiamo l'autore e facciamoci spiegare meglio questi dati. Buonasera ad Alberto Mantovani. Buonasera, buonasera a lei e buonasera agli ascoltatori. Alberto Mantovani, partiamo da una constatazione di cui lei parla molto nel suo libro, il fatto che in Italia sta diminuendo la fiducia nei vaccini. Perché secondo lei c'è questo atteggiamento? Perché l'Italia sta diventando così scettica nei confronti dei vaccini? Ma innanzitutto su questo c'è stato alzato un cartellino giallo da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Penso che i motivi siano due. Un primo motivo è legato al fatto che i vaccini sono vittima del loro successo. Io ho fatto in tempo ad avere un compagno di classe con una gamba atrofica a causa della polio, i miei figli e i miei nipoti non vedranno più, spero, nessuno con polio. Non vediamo più un bambino che muore di difterite, potremmo continuare. Credo che questo sia un problema e su questo io consiglio di leggere un romanzo di Philip Roth, che si chiama Nemesi, in cui si ricorda qual era la situazione per la polio prima del vaccino. Il secondo motivo è legato al fatto che si sono diffuse una serie di informazioni false, semplicemente false, sulla connessione fra salute, vaccini e malattie del sistema nervoso centrale come l'autismo, e queste notizie false sono diffuse in rete. Secondo lei, fra a queste due ragioni, se ne può aggiungere un'altra, il fatto cioè che ci sia una diffusa cultura antiscientifica nel nostro paese o addirittura non ci sia cultura scientifica? Io sono profondamente d'accordo con quello che lei sta dicendo e qualcosa abbiamo cercato di fare, per esempio abbiamo fatto partire un sito che si chiama Scienza in Rete. Penso che il nostro sia un paese scientificamente analfabeta, dove se si dice che Garibaldi è un poeta del 300 tutti dicono che è chiaramente sbagliato, ma se ancora su alcuni dei giornali più importanti recentemente ho letto si confondeva un virus con un batterio, che vuol dire che c'è un analfabetismo scientifico diffuso. Torniamo alle leggende metropolitane alle quali ha fatto cenno, per esempio al nesso che secondo alcuni esisterebbe tra i vaccini, tra alcuni vaccini e l'autismo. Cosa ci può dire a riguardo? Si tratta di un falso scientifico, un falso che origina alla fine degli anni 90, una pubblicazione di una persona che si chiama Wakefield, che pubblica un lavoro falso, possiamo dirlo falso, sostenuto dagli avvocati che intentavano cause su questo tema, lo pubblica su Lancet e per tutti questi anni si sono ripetuti studi volti a verificare questa falsità. Wakefield è stato espulso dall'equivalente degli ordini dei medici, la rivista ha ritirato il lavoro, questa leggenda continua a circolare e ci si dimentica di cosa rappresenta davvero il morbillo e qual è il rapporto fra rischi e benefici della malattia rispetto ai rischi e benefici del vaccino. Un altro argomento che i contrari, gli ostinati oppositori ai vaccini avanzano è quello che si tratterebbe di un grande complotto delle multinazionali del farmaco. Lei questo argomento lo tocca relativamente nel suo libro? Io penso che i dati sono dati dell'OMS, sono dati chiari che non hanno niente a che vedere con le multinazionali dei farmaci. Un mio amico, Andrea Biondi, è un grande oncoematologo pediatra, pochi mesi fa ha visto un bambino di 18 mesi che sarebbe stato molto probabilmente curato di leucemia linfatica acuta, ebbene perché vengono curati in più nel 90% dei casi, ebbene questo bimbo è morto di morbillo perché si è persa l'immunità del gregge contro il morbillo, qui non c'entra niente le multinazionali del farmaco. Infine è bene ricordare che lo scenario globale di produzione dei vaccini è cambiato drasticamente. Il più grande produttore di vaccini come numero di dosi di vaccino non è una multinazionale, è una industria indiana. Grandi produttori di vaccini sono organizzazioni pubbliche come per esempio l'Istituto Butantan, e qui c'è un mio amico con cui parlavo che è sulla linea del fronte su Zika, si chiama Jorge Khalil, ecco, sono grandi produttori, Cuba è un grande produttore di vaccini. L'ultima epidemia di encefalite, di meningite in Mali è stata affrontata, siccome non bastavano le dosi di vaccino, grazie ai vaccini prodotti a Cuba e in Brasile. E infine dovremmo essere orgogliosi di questo paese. Questo paese ha fornito vaccini per 5 miliardi di persone contro la polio. Siamo dei grandi produttori, dei grandi innovatori. Il vaccino contro meningococco di tipo B è italiano. Credo che ci sia, non è il mio mestiere, ma ci sia una bilancia dei pagamenti in grande attivo in questo settore. Quindi c'è una bilancia dei pagamenti in denaro, ma soprattutto in cultura, in saper fare e in generosità nei confronti dei paesi del terzo mondo. Lei ha citato un fenomeno di cui parla approfonditamente nel suo libro, e cioè l'immunità di gregge, che noi staremmo appunto minacciando abbassando il ricorso ai vaccini. Di che cosa si tratta? Si tratta del fatto che noi siamo un gregge, cioè quando abbiamo un virus, per esempio, come il morbillo o la polio, che si trasmette da uomo a uomo, se c'è un numero sufficiente di membri del gregge che sono protetti, beh, questi proteggono anche chi non si è vaccinato. Allora, tanto più un agente è infettivo, tanto più è importante che ci sia un numero alto di persone vaccinate. Nel caso del morbillo, l'immunità di gregge si stima intorno al 95%, cioè il 95% dei membri del gregge devono essere vaccinati per proteggere quel 5%. Ma chi sono il 5% nel caso del morbillo? Beh, sono quei 1500 bambini con cancro che abbiamo nel nostro paese in questo momento, molti dei quali non possono essere vaccinati perché hanno un sistema immunitario compromesso e il vaccino è un vaccino a germi vivi. Sono le nostre persone anziane, sono le persone con malattie del sistema cardiovascolare, dei reni. Ecco, la vaccinazione è un gesto di solidarietà nei confronti dei più deboli nella nostra comunità. Nel suo libro lei insiste su due aspetti sociali importanti delle vaccinazioni. Il primo è un fattore di uguaglianza, come lei lo definisce, e il secondo è il fattore legato al fatto che i vaccini servono a tutelare in particolare la donna. Sì, questo è particolarmente vero perché abbiamo un vaccino contro il virus del papilloma umano che causa il cancro della cervice, che affronta un problema, una malattia di genere. Anche qui è il caso di ricordare i numeri. Oltre 200.000 donne all'anno muoiono a causa di cancro della cervice uterina. Sono in larga misura nelle fasce più povere della popolazione e nelle zone più povere del mondo. Ebbene, se noi guardiamo il carico di malattie di sofferenza sul pianeta e lo facciamo uguale a 100, le donne portano fra il 60 e l'80% di questo carico. Ecco, il vaccino contro il virus del papilloma è un'occasione per alleggerire questa disuguaglianza di genere fra la salute maschile e la salute femminile. Questo però non vuol dire non vaccinare i maschi contro Human Papilloma Virus, perché i dati sono molto chiari: il vaccino protegge contro alcuni tumori della testa e del collo e contro il carcinoma anale che colpisce i maschi. Infine c'è un tema di carattere culturale, questo vale per molte o per alcune etnie in paesi in via di sviluppo, si tendono a proteggere più i maschi delle femmine, purtroppo. Grazie ad Alberto Mantovani, autore di Immunità e Vaccini. Buona serata. Grazie a lei. Un altro medico è Giorgio Calcagno, che è un urologo di Genova, esperto di storia della scienza, che ha scritto Medico cura te spesso, è pubblicato da Mimesis, 186 pagine, 18 euro. La medicina, dice il prefattore del libro Giorgio Murialdi, resta una scienza non completamente esatta, perché aggiunge: il comportamento dell'uomo conserva tutte quelle variabili legate all'unicità e complessità del singolo individuo. Perciò rimane essenzialmente una scienza per l'uomo e quindi deve riappropriarsi delle sue prioritarie basi umanistiche, affrancandosi da una dipendenza esclusiva dalle tecnologie. Il titolo del libro è la parafrasi di una famosa citazione di Gesù Cristo, e il libro stesso non è tanto una storia della medicina, né tantomeno un libro di memorie, ma, dice l'autore, è soprattutto un libro che oscilla tra un manuale di navigazione e di sopravvivenza medica e un compendio di considerazioni personali intrecciate a vicende storiche e filosofiche. Si parla dunque di stato, etica, sviluppo della medicina, per affrontare il tema centrale, quello appunto di considerarla come qualcosa di diverso dalla semplice applicazione di tecnologie sempre più avanzate, e quindi di considerarne anche con attenzione le problematiche di carattere etico. Per questo l'autore ricorda l'ammonimento che gli aveva dato agli inizi della carriera un anziano collega, per il quale, scrive, a un certo punto della vita professionale era stato più importante leggere Dostoevskij che un testo di medicina. Una frase che Calcagno ha compreso quando ha colto l'importanza appunto del rapporto col paziente e della consapevolezza della sua unicità. E a questo punto interrompiamo per un attimo, ci sentiamo tra pochi istanti. Radio24.it è sempre con te. Anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. In questi giorni ricordiamo due figure eminenti della cultura italiana del Novecento, entrambi due grandi intellettuali, due liberali, due antifascisti intransigenti. Il primo è Piero Gobetti, che morì il 15 febbraio del 1926 a Parigi, anche a seguito delle botte che aveva ricevuto dai fascisti. Gobetti, torinese, nato nel 1901, fu un grande e precoce animatore culturale con le celebri riviste cui diede vita: Energie 9 del 1918, Baretti del 1924 e forse quella più celebre, Rivoluzione Liberale, fondata nel 1922, che sarà chiusa appunto dal regime nel 1925 e che ospiterà tutti i grandi maestri dell'epoca, non soltanto liberali, a partire da Luigi Einaudi, e che fu lo strumento per l'elaborazione di un'originale versione del liberalismo influenzato dal consolidarsi della classe operaia, della quale parlava negli stessi anni Antonio Gramsci. Insomma, un grande intellettuale e un grandissimo giornalista. Fra l'altro Gobetti scrisse molto anche di teatro, e una scelta dei suoi articoli troviamo nel libro curato da Paolo Bagnoli, che è uno studioso di Gobetti e del liberalismo di sinistra, che si intitola Il giornalista arido, articoli 1918-1925, pubblicato da Ragno, 250 pagine, 15 euro. Gli articoli di Gobetti sono tantissimi, qui ne troviamo 31, raccolti per temi. E perché il volume si richiama all'aridità? Perché questa era la caratteristica che Gobetti si riconosceva. Un'aridità di carattere non tanto temperamentale quanto filosofico, perché la definiva, come spiega lo stesso Bagnoli, il concretizzarsi di sé come realtà morale compiuta. Aridità dunque contrapposta al romanticismo, che indulge al progettismo, diceva Gobetti, mentre all'aridità produceva ai suoi occhi un progetto compiuto unitariamente. E qui il giornalista testimone di questo impegno, che è un impegno anche civile e politico. L'altra grande figura di intellettuale, di liberale, di antifascista fu Benedetto Croce, di cui giovedì prossimo ricorre il 150° anniversario della nascita. Sentite la considerazione che di Croce ebbe Gobetti. Gobetti all'inizio considerava Croce con grande rispetto, ma comunque nulla di più che un onesto conservatore con venature liberali. Quando Croce abbraccerà definitivamente l'antifascismo, dopo un iniziale sbandamento di simpatie del quale presto si pentirà, l'ammirazione di Gobetti per Croce aumenta, e lo testimoniano le righe che vi propongo, che sono tratte appunto dal libro curato da Bagnoli. Croce può essere un maestro agli italiani anche nella serenità del combattere. Egli ha conservato rigorosamente il senso dei suoi limiti. Le sue preoccupazioni sono tutte volte al futuro. C'è in lui la commossa e trepida coscienza che nella battaglia di oggi sono impegnati gravi destini. Egli avverte questi pericoli di civiltà dolorosamente e si è votato alla polemica antifascista quotidiana come per una necessità di liberazione. Perché nessuno può mancare ai suoi doveri. Il suo dovere fondamentale, poi, è che la sua politica non diventi politicantismo. L'uomo di libri e di scienza cercherà dunque di tenere lontane le tenebre del nuovo Medioevo, continuando a lavorare come se fosse in un mondo civile. Noi sentiamo in Croce un maestro, proprio per questa impassibilità di non conformista. Croce dunque era nato a Pescasseri il 25 febbraio del 1866 e sarebbe diventato uno dei più importanti filosofi del suo tempo, celebrato in tutta Europa. Croce fu anche storico, anch'egli fondatore di un'altra celebre rivista, La Critica, che rimase in pratica l'unica voce non clandestina di opposizione al fascismo, che nulla poté contro di lui, talmente alto era il prestigio internazionale di cui godeva. Dopo il fascismo, Croce sarebbe stato tra i padri della Repubblica, della Costituzione, fondatore del Partito Liberale, e fu anch'egli, come Gobetti, critico letterario, e proprio con gli scritti letterari lo ricordiamo oggi grazie a un libro di Adelphi, la casa editrice che meritoriamente sta ripubblicando da diversi anni Croce, che per molti anni era sparito, forse proprio perché liberale, dagli scaffali delle librerie italiane. Questo volume si intitola Poeti e scrittori d'Italia, è curato da Giuseppe Galasso, 520 pagine, 34 euro, ed è il primo perché abbraccia il periodo fino all'età barocca. L'importanza di questi saggi è spiegato dal curatore, che ci ricorda come Croce diffidasse delle storie compiute della letteratura, ma come invece avesse scritto moltissimo di estetica, poesia e letteratura, preferendo affrontare situazioni, periodi, opere letterarie e autori di cui riusciva a cogliere degli spunti critici che si rivelano ancora di straordinaria attualità. Tale la massa di questi scritti che lo stesso Croce autorizzò una sorta di antologia di questi scritti che uscì nel 1927, alla quale si ispira questa raccolta, che risulta però integrata da altri saggi in modo da risultare più completa, da dare vita a un vero e proprio excursus della letteratura italiana. Croce era egli stesso un grande scrittore e questi saggi, oltre che ancora autorevoli dal punto di vista critico, sono spesso pagine di grande valore letterario, come dimostrano queste righe che vi propongo e che Croce dedicò a Machiavelli. Importante è che il Machiavelli sia come diviso d'animo e di mente circa la politica della quale ha scoperto l'autonomia, e che gli appare ora triste necessità di bruttarsi le mani per aver da fare con gente brutta, ora arte sublime di fondare e sostenere quella grande istituzione che è lo Stato. Assai spesso egli ne parla con tono religioso, come dove ricorda il detto che bisogna per il bene dello Stato essere disposti a perdere, nonché la reputazione, la salute dell'anima propria, o quando guarda indietro, con poco celata invidia, alla religione pagana, che poneva il sommo bene nell'onore del mondo ed esaltava gli uomini pieni di umana gloria, e pregiava la grandezza dell'animo, la forza del corpo e tutte le virtù che rendono gli uomini fortissimi, laddove la religione cristiana, col mostrare la verità e la vera via all'altro mondo, dispregia questo, loda l'abiezione e gli uomini contemplativi, pone sopra quegli altri e il patire sopra il fare. È diabolica o divina la politica? Il Machiavelli la vagheggia sotto l'immagine del centauro, che appunto i poeti dipingono bellissimo tra l'umano e il ferino, e descrive il suo principe per metà uomo e per l'altra metà belva. Proprio le considerazioni di Croce sull'estetica troviamo segnalate tra le 50 opere per iniziare ad amare la filosofia, cioè un elenco che chiude il libro di una studiosa milanese, Maria Bettettini, che ha scritto una piccola scuola di filosofia, come recita il sottotitolo del suo libro La bellezza e il peccato, pubblicato da Bompiani, 206 pagine, 12 euro. Questa è un'opera divulgativa che non è certo un bignami di filosofia, ma che ci invita ad accostarci alla filosofia per farla diventare, come scrive l'autrice, un'amica. Per lasciare entrare la forza della filosofia nella vita, per imparare a usare quella meraviglia di intelligenza, cogliendone anche le declinazioni affettive e comportamentali. È un libro a temi che si può leggere e saltare da una pagina e da un paragrafo all'altro, pagine e paragrafi che sono tutti molto brevi, come un viaggio in metropolitana, ci spiega l'autrice. Il primo capitolo, per esempio, si intitola Dentro l'anima, e in questo capitolo la Bettettini ci presenta il tema e poi affronta varie voci, per esempio felicità, profumo, colpe, ritorno, tempo, fede, col punto interrogativo, sogno, con riflessioni ispirate ai maggiori filosofi e anche a personaggi popolari come i Simpson, i Sempliciotti, così si conclude il libro, che forse hanno scoperto l'essenziale della vita in questo mondo. E per concludere incontriamo uno dei padri fondatori della filosofia, cioè Socrate, assieme a una grande filosofa intellettuale del Novecento, Anna Arendt, che del filosofo ateniese parlò in un corso che tenne negli Stati Uniti nel 1954. Questo corso viene riprodotto in un agile volumetto curato da Ilaria Possenti e con i saggi critici di Adriana Cavarero e Simona Forti, pubblicato da Cortina, 122 pagine, 11 euro. Il saggio dell'Arendt occupa una cinquantina di pagine di questo volume, e in queste pagine la Arendt apre una grande polemica con Platone, con la sua visione della città ideale, mettendo in luce come sostanzialmente Platone avesse tradito l'insegnamento di Socrate, e quindi il saggio della Arendt rappresenta una considerazione anche sui rapporti tra filosofia e politica. Platone, dice infatti la Arendt, è il primo a usare le idee per scopi politici, cioè per introdurre criteri assoluti nella sfera degli affari umani, dove senza criteri trascendenti di questo tipo tutto resta relativo, mentre Socrate, spiega, voleva portare alla luce la verità che ognuno potenzialmente possiede, voleva rendere la città più veritiera facendo partorire ogni cittadino la propria verità. Il compito del filosofo Yusuf, conclude la Arendt, allora non è quello di governare la città, ma è quello di essere il suo tafano, di rendere i cittadini più veritieri. E il processo a Socrate, alla luce della giurisprudenza e psicologia moderne, è il titolo di un altro agile volumetto di Max Alsberg, che fu un grande penalista tedesco che si uccise nel 1933. Il volume introdotto da Alessandro Bernasconi, pubblicato da Booktime, 66 pagine, 6 euro. E troviamo qui la ricostruzione del processo di Socrate che ha contribuito a definire la nostra civiltà. E l'autore fa risaltare la figura di Socrate, che fu grande non soltanto per la forza d'animo di cui diede prova accettando la pena che egli considerava ingiusta, ma per essersi rifiutato di pentirsi. Alsberg infatti si chiede retoricamente: non è questo l'esempio della vera grandezza umana? E non fosse altro che per questo, non dovrebbe Socrate apparire a noi giuristi la più grande figura etica rappresentativa della dignità dell'accusato in giudizio? E a questo punto il confettino. Vi presento oggi una nuova collana di Lodovica Cima. È una collana che si chiama Tandem e si rivolge ai lettori tra i 5 e i 7 anni. Perché questo nome? Perché c'è una doppia versione in ogni volume di storie, una più breve scritta in caratteri maiuscoli per abituare i più piccoli alla lettura e una più lunga in corsivo per proseguire nel gusto della lettura. I primi titoli sono Nel paese delle parole, con le illustrazioni di Chiara Fiorentino; il secondo, Gli errori di Coccodrillo, illustrato da Silvia Fabris; Martina e il suo cappello, con le illustrazioni di Silvia Baroncelli; Aiuti grandi, illustrato da Chiara Nocentini. L'autrice, ripeto, è Lodovica Cima. L'editore Il Castoro. Ogni volume a 48 pagine costa 6,90 euro. E con questo ringrazio Luca Cremonese e Federica Cavalli in redazione, Roberta Frisani in regia, e vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibrochiocciolarade24.it, e il sito www.radio24.it, da dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.